168esima trasmissione dedicata agli emigrati. Festival di Pradamano 1967. Con il complesso di Franco Russo vogliamo dedicarvi, cari amici lontani, un altro gruppo di canzoni moderne friulane che hanno avuto il battesimo di applausi e di popolarità al Festival della Canzone di Pradamano 1967, ormai giunto all'ottava edizione. Ascolterete pertanto di Aldo e Dante Visentini i Beatles Furlans con la voce di Barbara Lori, con la voce di Arturo Testa Unai Arzovin di Lelo Chanton e Giovanni Longone, il valzer moderato La Me Spose di Beppino Lodolo e Otello Zuccolo nell'interpretazione di Arturo Testa, ed infine la barcarola Sintimi Sintimi di Maria Gioitti del Monaco e Livia Romanelli, cantata da Barbara Lori. Vincent tut quel grand ouvert di difendi che ste lenghe che non devi mai tase si ne bites furlan propi che da ye ye se muvi pi se man vini nestri per te ma non le propi ve c'è chi di dinizir ho visto il kerbalin di non la dal barbir sin de ere spazial vini già fin da lui ma tal cor sempre vi resti nestri privur sin i bites furla propi che dai Unai Arzovin inte vi arte tutem flor celusor stai voi desfrutis e c'è sinti cale l'amor amor lusor di lune si sintim dai pra Stelis luci sul mar o frutti mistantis roses ca florissin pa la vri. Si li sviota viarzi il butu, parca li entri dentro il cielo. Sin maghe caduta al par trimate stelis lusi sul mar, trimate stelis lusi sul fra tante robis bienis la mia spose benedete. Une gote di rosade e poiade sui tiei voi e la bociute pitinine, tan graziose tal di mi amor, tu ses par me, tutto il mio ben, sposine me, ti vuoi tan ben, tu ses par me. Serene col suo vaso. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ermete Pellizzari.